Radio 24 Reportage. 5 Terre, dove l'assalto dei turisti non è un rimpianto. Di Andrea Ferro. In un tempo normale, a giugno, avrei fatto fatica a muovermi tra i paesi delle Cinque Terre. Mi sarei ritrovata a guardare fiumi di folla, informe, rumorosa, vomitata a ritmo incessante dai treni, dai battelli, pure da qualche pullman, fin laddove può arrivare. Più stranieri che italiani, più americani orientali che europei. Insomma, la bolgia all'assalto di un territorio che sembra una bomboniera appesa sul mare. Piccolo, fragile, verticale, chiaramente unico. Solo nel 2019 più di 3 milioni di turisti per 4.000 residenti. Quest'anno invece camminare lungo i piani inclinati dei borghi è un piacere che condivido con un ordine sparso di famigliole, coppiette, gitanti solitari dalla faccia rilassata. Quasi si sentono solo le onde. E ogni tanto i treni che corrono sulla roccia con i finestrini che tra una galleria e l'altra offrono cartoline mozzafiato ai passeggeri. Nel contrasto lampante tra ieri e oggi c'è il senso della prospettiva futura per questo territorio che adesso galleggia in una risacca di speranze, rimpianti, contraddizioni eppure anche un po' di sollievo. Come se il lockdown, oltre a proteggere dal coronavirus, qui un solo caso, avesse riavvolto il nastro per ripartire dall'anno zero, imposto ma in fondo necessario. Il nostro viaggio così è il racconto per voci delle Cinque Terre alla ricerca di un altro punto di gravità. Partiamo da Manarola, via di Scovolo è l'unica strada, taglia il paese e degrada verso il mare. Al bar ristorante Aristide la titolare è Monica Andreotti. Rimpiange la folla? Normalmente sì, la rimpiango. Rispetto a una giornata di metà giugno degli anni scorsi, quanto lavoro in meno? In meno, il 98% in meno, perché non c'è proprio gente in questo momento. Io personalmente ho 17 persone a casa che non stanno lavorando perché non c'è bisogno di personale in questo momento. Nel bar, davanti ad un caffè, c'è Jerry, ha il negozio di accessori e souvenir GP Store 1971. Siamo uno dei primi negozi che hanno riaperto. Ora si fa una gran fatica andare avanti perché ovviamente siamo in un posto turistico e quindi... Si diceva, troppa gente alle Cinque Terre, invivibile, difficile trascorrervi qualche ora in maniera decente, però per voi... Siamo sempre su questo punto, non della gente, della troppa gente. D'altronde non si può negare a nessuno di venire a visitare un posto bello come le Cinque Terre, come del resto andare a Venezia o a Firenze. Scendiamo verso il mare e incontriamo una coppia di Trieste con gli occhi pieni della magia del posto. Bellissimo, proprio bellissimo. Sono all'altezza della fama, è una gioia essere qua. Speravamo ci fosse poca gente, difatti ce n'è poca, forse anche troppo poca, perché si vedono locali chiusi, eccetera, ma speriamo che riparta tutto. Qual è la cosa più bella? Il mare, di questo mar Tirreno così impetuoso, ondoso, bellissimo. Noi non siamo abituati, l'Adriatico è un mare più tranquillo, no? Quindi sì, questo, forse il mare è la cosa che più mi ha colpito. Sì, e qui il mare è un'immensità e al tempo stesso uno scorcio chiuso su una prospettiva sempre diversa. Svegliarsi al mattino e guardarlo è sempre stato un privilegio per pochi. A Manarola trovare una stanza era un'impresa. Per cercare conferma entriamo all'hotel Marina Piccola. Prenotazioni? Poche per adesso, per giugno, qualcosa in più per luglio, ma insomma poca roba. Normalmente a questo punto della stagione noi siamo piene fino a settembre e... mandiamo via la gente, adesso ho stanze libere praticamente sempre. Italiani e stranieri ora? Per lo più italiani, comincia ad arrivare qualche timida prenotazione da francesi, svizzeri, però poche. E lei rimpiange un po' la folla? No, non rimpiango la folla, no, giammai. Anche perché noi con la folla non ci lavoriamo, i nostri clienti sono clienti stanziali che vengono 2-3 notti a godersi le Cinque Terre e anzi sono piuttosto infastiditi dalla folla. Quindi bisogna trovare quello che si dice un punto di equilibrio. Decisamente un punto di equilibrio sarebbe la cosa ideale. Sono sicura che non sia facile trovarlo, però insomma ci si può provare. Un punto di equilibrio necessario, difficile però trovarlo centrato per tutti. E qui sta il dilemma. Ce lo dicono anche a Vernazza, la strada che arriva al mare è via Roma. Tra i vari negozi, quasi tutti riaperti, c'è quello di magliette e souvenir di Ada Roncallo. Signora, come vanno le cose? Male. Qui si dice la folla era troppa, per ora che manca, anche la troppa manca. Forse bisognerebbe aspettare un attimo che aprissero le frontiere, perché gli italiani, per l'amor di Dio, sono brave persone, ma siamo tutti uguali, abbiamo tutti dei problemi, per cui non spendono. Ieri ho fatto una giornata con una calamita, per cui non ci riesco nemmeno a pagare la luce, come si suol dire. Pochi metri più in là, l'enoteca Sciacchetrà, il titolare di cognome Famoggia, da queste parti è un po' come Brambilla a Milano. E Sciacchetrà è il nome del vino che qui si produce in un'architettura di vigneti in bilico sul precipizio. Poche bottiglie di pregio, tanti estimatori, ma il lockdown ha ribaltato pure questa proporzione. Questa ripartenza c'è o non c'è? Molto molto lenta, lentissima direi. Ci sono stati anche dei problemi per il vino, no? Ma sì, tante le cantine ce l'hanno invenduto, ce l'hanno tutto lì, quindi tra pochi mesi ci sarà la vendemmia nuova, però nelle cantine c'è ancora quello vecchio, quindi anche per loro sarà un problema, perché se non si smaltisce... Lei come vede il futuro? Spero che da luglio cominci qualcosa, qualche prenotazione, c'è già un po' di più nelle camere, perché noi abbiamo anche qualche camera, penso che arrivino, specialmente dall'Europa. Negli altri anni avevamo il 90% di turismo americano, neozelandese, australiano, quest'anno sicuramente non si vedrà. Ora troviamo quasi solo italiani. Eccone due seduti ad un tavolo della pizzeria Lunezia sulla piazza accanto alla chiesa. Dall'Abruzzo, Teramo in particolare. Mai viste così le Cinque Terre? Beh, effettivamente sì, ma più che altro è che diciamo che è difficile ripartire. Però l'idea di essere qui a mangiare... è favolosa, è il massimo. Anzi, sono contento che ci sia poca gente dal punto di vista personale. Mi dispiace ovviamente per tutte le attività che ovviamente hanno un grosso problema. Oggi il menù, signora? No, ci accontentiamo di una pizza con i frutti di mare e poi godiamo un po' di questo bel paesaggio. Il titolare della pizzeria è un uomo che conosce le ripartenze. C'è stata un po' di emozione a riaprire. Ma guardi, io è da 30 anni che faccio questo mestiere, quindi c'è sempre un po' di emozione a ogni ripartenza. Questa è la seconda, ci fu l'alluvione nel 2011, ma questa sembra più seria, ma non rimane che sperare e l'ottimismo è sempre fondamentale. In questo giugno, dal tempo capriccioso, la giornata alterna nuvole e schiarite. Sul molo e sulla spiaggia, all'ora di pranzo, abbronzatura a sprazzi e qualche tuffo sgranocchiando. Da dove venite? Da Livorno. C'è una certa emozione, no? Tornare al mare dopo tanto tempo. Sì, sì, anche se ce l'abbiamo anche in casa, noi il mare, quindi siamo un po' più fortunati. Le Cinque Terre sono le Cinque Terre. Sì. E non c'è il pieno solito, per cui si riesce anche a godersi i posti in maniera diversa. La focaccia è buona? Focaccia molto buona. Il sindaco di Vernazza è Francesco Villa. Prima di andare in pensione è stato comandante della Polizia Municipale a Rio Maggiore e Monterosso, che insieme a Corniglia sono le altre tre delle Cinque Terre. Per raggiungere il comune devo arrampicarmi lungo una scalinata. Ho il fiatone. Sul presente e il futuro il sindaco non ha dubbi. Allora, signor sindaco, io ho fatto un giro in paese, sono stato anche a Manarola. Diciamo, il sentimento è abbastanza contrastante. Chiaramente rispetto all'anno scorso, quando arrivavano le comitive dei cinesi, che non ci sono più per fortuna, c'è un po' più, è più vivibile, anzi offriremo sicuramente all'ipotetico turista che vuole venire nelle Cinque Terre un ambiente più calmo, più tranquillo e più, dove gli spazi sono un po' più vuoti. Invece prima era proprio un caos che non piaceva a nessuno. Quindi questa può essere un'occasione per trovare quell'auspicato punto di equilibrio tra chiaramente la necessità di garantire la stagione, al tempo stesso però anche di garantire la vivibilità di questi borghi. Sì, sì, sicuramente. Quello che era il turismo che stava avanzando ormai con queste comitive, crociere e tutto, non è un turismo che porta del bene, porta solo caos e anzi distrugge quello che è l'ambiente. Invece adesso stiamo già riavendo un turismo, quello, non dico di elite perché non è un termine che mi piace usare, però insomma la gente che viene apprezza quantomeno, quindi ritorna. A noi questo Covid, sarò l'unico in Italia a dirlo, ma ci ha fatto un po' bene perché ha ridimensionato quello che sono la situazione che esistente, che era veramente brutta. Beh, se c'era un modo per dirlo chiaramente, il sindaco di Vernazza non ci ha girato troppo intorno. E in fondo la pensa così anche Patrizio Scarpellini, il direttore del Parco Nazionale delle Cinque Terre, l'uomo che con il suo staff salvaguarda questo territorio dichiarato nel 1997 dall'UNESCO Patrimonio Mondiale dell'Umanità. Una ripartenza lenta, ma mi permetto di dire di qualità, nel senso che vediamo molte famiglie, molti giovani, molte coppie che vengono qua non tanto per fermarci solo sui borghi, ma per camminare, cioè riscoprire quel contatto con la natura che credo le Cinque Terre è in grado di trasmettere, soprattutto dopo il lockdown che c'è stato. Noi crediamo molto nell'effetto terapeutico del nostro paesaggio e questo è stato capito parecchio dal primo turismo che abbiamo avuto, quello di prossimità, e soprattutto il sabato e la domenica, devo dire, si comincia a vedere un po' di movimento che ci gratifica anche dei lavori che stiamo facendo. C'è chi dice la folla portava anche gente, portava anche denaro. Ma non c'è ombra di dubbio che il turismo fosse la prima fonte di sostenibilità economica per la comunità delle Cinque Terre, non è in discussione e tutti vogliamo che continui a esserlo, però non deve essere una minaccia di estinzione di quella che è la specie protetta delle Cinque Terre, che sono gli abitanti e i residenti dei luoghi. Quindi dobbiamo cercare di ripartire non come prima, ma meglio di prima, con le stesse persone però gestite, più distribuite e più anche attente a quelli che sono i valori del nostro territorio, perché un turismo di corsa, un turismo distratto, penso non sia un turismo che meritano le Cinque Terre. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.